che posso scordarti, seguendo la rotta di un passero muto. Io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho voluto. E sola di notte sentirmi morire e non chiederti aiuto. Io posso scordarti facendo ogni giorno una torta diversa. Io posso scordarti passando le ore a contarmi le dita. Mi posso stancare e arrivare la notte più morta che viva. Poi nel mio letto confondere i sogni nel rosso del vino. Ce la farò a non soffrire più, a non parlare più da sola. Ce la farò a non pensare a te, a non volerti più perduto. Ce la farò scordarti, seguendo la rotta di un passero muto. Io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho voluto. E solo di notte sentirmi morire e non chiederti aiuto. Ce la farò a non soffrire più, a non parlare più da sola. Ce la farò.